30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Scatta l'allarme negli Stati Uniti per un possibile attacco di Al-Qaeda nel decennale dell'11 settembre. Ad essere minacciate sarebbero soprattutto le città di Washington e New York. Le autorità americane parlano di minaccia credibile, specifica ma non confermata. Il sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg, ha invitato la popolazione a evitare il panico e a informare le autorità su tutto ciò che può destare sospetti. A Manhattan, intanto, sono state rafforzate le misure di sicurezza e i controlli su metropolitana, ponti, tunnel e su tutti gli obiettivi più sensibili, a partire da Times Square e dalla Penn Station. Ancora una buonasera da Gigi Donelli, da Pietro Lacorte in regia questa sera, dunque l'11 settembre. Ne parliamo, lo ricordiamo, ma cerchiamo anche di fare il punto su ciò che questo evento drammatico ha portato, cambiando e insegnando anche nelle nostre vite. Un ospite molto gradito questa sera, l'ambasciatore Giorgio Radicati. Ambasciatore, innanzitutto buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, dottor Donelli. Io andrei secco, come si dice. Lei dov'era quel giorno, quella mattina? Quella mattina mi trovavo in macchina mentre andavo in ufficio. Come racconto nel mio libro, fui raggiunto da una telefonata della mia segretaria, la quale mi disse che un aereo da turismo era andato a sbattere contro una delle due torri gemelle. La notizia mi lasciò un po' spiazzato, perché un aereo da turismo Manhattan non si poteva sorvolare, quindi pensai forse un malore ha avuto il pilota. Arrivai in consolato pochi minuti dopo e mi trovai di fronte lo schermo della televisione che riportava il secondo aereo che sbatteva sulla seconda torre, e a quel punto capii subito che non si trattava né di malore né di incidente fortuito, né di un aereo da turismo. Ecco, ambasciatore, no. Ora naturalmente ne parleremo. Uno degli elementi forti che condividiamo nel ricordo di quella mattina, io ero con i colleghi a Milano, naturalmente, nella serie di Radio 24, accendiamo una televisione e la prima riflessione è: un aereo impatta contro le torri. In fondo era già accaduto contro l'Empire negli anni 40, peccato che fosse notte d'inverno, quella era una mattina di sole. Splendida giornata. E non c'era dunque spazio per gli errori. Giorgio Radicati, dunque, console generale d'Italia a New York, lo era da 3 anni, se non sbaglio, quando quella mattina cambiò molte cose e naturalmente la mise al centro anche di una rete di domande, di informazioni. Insomma, un'altra domanda le faccio subito: quanti italiani furono coinvolti direttamente nelle tragedie del World Trade Center? Diciamo che il bilancio finale è stato di 11 connazionali, per 11 connazionali intendo italiani di passaporto e di nazionalità, ma di origine italiana ci furono oltre 800 italoamericani che perirono, la gran parte nelle file dei pompieri e dei poliziotti. Quella mattina, dunque, prima lo stupore, direi, poi la certezza. Alle 9:21, tanto per procedere nella memoria, il sindaco Giuliani fa chiudere tutti i ponti della città. Manhattan, dunque, è isolata. In effetti, questa fu la decisione, diciamo, la prima decisione importante che Rudolf Giuliani prese, pensando ovviamente che la chiusura, cioè l'isolamento di Manhattan in quel momento era forse la cosa migliore da prendere, perché non si sapeva se questo attacco sarebbe stato seguito da altri attacchi, soprattutto sulla base delle notizie che vennero poi da Washington, e cioè dell'aereo che era andato a impattare contro il Pentagono. Quindi è un'atmosfera caotica dove Giuliani dimostrò veramente molto sangue freddo e molto coraggio. Giuliani emerge subito come una figura, non solo perché è il sindaco della città, ma perché di fatto emerge con quell'immagine che a 10 anni di distanza abbiamo in qualche modo congelata di lui, cioè un uomo d'azione pronto a intervenire. Ma 9 minuti più tardi, sono le 9:30, il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, fa sentire la sua voce. Fa sentire la sua voce e praticamente dichiara che c'è una guerra in atto contro gli Stati Uniti, cioè i due aerei lanciati contro le due torri costituivano ormai la prova evidente che l'America era sotto attacco. Un attacco, dunque, era chiaro, tanto che alle 10.03, poi in qualche modo, come dire, non insisterò sugli orari, anche se gli orari sono importanti, e lei, quando scrive nel suo diario le memorie 11 settembre io c'ero, le ricorda, credo che siano importanti. Alle 10.03 dunque la Casa Bianca viene evacuata, è il panico. È il panico più assoluto. Tra l'altro non dimentichiamo che il presidente Bush poco prima era arrivato col Air Force One, dopo aver girato per un'ora sui cieli americani, e il vicepresidente Cheney era stato portato nel bunker sotto la Casa Bianca per essere sicuri che la sua incolumità fisica fosse totale. Insomma, uno scenario da War Games, nel senso che non c'è nessun game in questo caso, ma c'è tutta quella escalation della paura col mondo che si interroga. In questo ruolo, torniamo a lei, il console generale è di fatto il capo della comunità, in questo caso di una comunità così importante come quella italiana a New York. Come ci si raccapezza in un contesto del genere? Immagino le domande, a cominciare dal governo italiano, ma non solo, dalle persone preoccupate, terrorizzate. Guardi, io, come cerco di raccontare in maniera dettagliata, il mio primo pensiero che è sorto è quello di vedere in che modo la comunità italiana fosse coinvolta in questa tragedia. Cioè, in che modo significa quante vittime c'erano state, quante sarebbero potute esserci, e soprattutto dare una tempestiva informazione a Roma, all'amministrazione centrale, attraverso l'unità di crisi della Farnesina. Quindi questi erano i due primi pensieri: pensare alla comunità e dare l'informazione. Però poi c'era un terzo problema che occorreva risolvere, e cioè l'organizzazione di questa assistenza che io dovevo dare. E su questo devo dire siamo stati soli, perché la municipalità di New York praticamente non ebbe nessun contatto con le rappresentanze consolari che tentavano di capire cosa stava succedendo. E allora mi dovetti fare buon viso a cattiva sorte e inventarmi una strategia che consisteva nell'organizzare il consolato in settori, quindi chi si doveva occupare del centralino, perché in tre giorni ricevemmo 4.000 telefonate, chi si doveva occupare della raccolta di informazioni, chi si doveva occupare all'interno del consolato della ricezione di connazionali, anche turisti, che eventualmente fossero arrivati, e infine chi si doveva occupare di creare un flusso di notizie verso l'Italia che dessero al Ministero degli Esteri, quindi alla nostra amministrazione, chiaramente ciò che stava succedendo e l'evoluzione, che era rapidissima. Ecco, tutto questo io lo dovetti affrontare in uno spazio di 10, 20, 30 minuti. E devo dire che il Ministero, l'amministrazione, fu molto, molto, molto abile nel capire la mia situazione, per cui praticamente mi dette il comando delle operazioni e rimase soltanto come terminale dove le informazioni che io tempestivamente davo gli affluivano, e a sua volta l'amministrazione, questa amministrazione, le riversava sulla stampa, l'opinione pubblica, i centinaia di cittadini che telefonavano. Ambasciatore, prima di sentire insieme il traffico, poi torniamo a parlare anche delle elezioni, se vogliamo dire così, di questa tragedia, le faccio un'altra domanda. Lei quando vide per la prima volta Ground Zero, o quello che appunto era diventato Ground Zero? Dunque, lo intravidi nel pomeriggio, quando decisi di lasciare la postazione in ufficio, e verso le 4 o 5 del pomeriggio andai verso Ground Zero per vedere un po', rendermi conto di persona. La vidi molto meglio un paio di giorni dopo, quando le autorità locali organizzarono una piazzola particolare che poi è rimasta leggendaria, perché tutte le visite venivano portate in quella piazzola, si passava attraverso un percorso tortuoso tra i palazzi, eccetera, e questa piazzola dava un'idea di Ground Zero molto, molto, molto, molto, molto chiara, perché era a poche centinaia, cioè sarà stato 50 metri dal bordo di Ground Zero. Di questo spazio incredibile. Torniamo subito tra qualche momento con Giorgio Radicati, lo ricordo, ambasciatore, allora console generale d'Italia a New York. Naturalmente New York non è una capitale, quindi il console generale di una città come New York si trova di fatto a gestire un ruolo centrale, non solo in quello che è la comunicazione tra lo Stato, tra Roma e New York stessa, ma di una comunità decisamente importante come è quella italiana negli Stati Uniti. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera il nostro ospite è Giorgio Radicati, ambasciatore, allora console generale d'Italia in quella New York che 10 anni fa veniva sconvolta da una serie di attentati che si possono tranquillamente definire impensabili prima di allora. Ambasciatore, quella giornata ha segnato una cesura netta nella storia non solo della città di New York, direi sintetizzando la fine anche dell'illusione di una inattaccabilità che, come dire, gli americani avevano sperimentato, ma a Pearl Harbor, così lontano anche dal cuore della nazione. Impensabile è l'aggettivo giusto che lei ha usato. E concordo anche sul fatto che dopo l'11 settembre l'America non è stata più la stessa, New York non è stata più la stessa, direi che poi tutta la nostra civiltà occidentale non è stata più la stessa, perché noi abbiamo avuto una sequela di fatti, di eventi in gran parte anche drammatici, guerre, invasioni, nuovi tentativi, diciamo, di attacchi che continuano fino ad oggi. Quindi noi ancora ad oggi, leggendo le cronache americane o sentendo parlare il Presidente degli Stati Uniti, sentiamo ancora le parole attacchi, terrorismo, insicurezza, crisi, quindi come vede l'11 settembre è veramente una data epocale. È ancora tra noi, la riporto ancora una volta a quei giorni, lei ci ha raccontato prima il primo sguardo sulle macerie, mi permetto di fare una citazione personale, come molti giornalisti cercavamo di raggiungere gli Stati Uniti, il primo stopover, il primo passaggio fu Toronto, poi in autobus fino a Ground Zero, ecco, 3 giorni dopo ci ritrovavamo a migliaia e, come dire, inondati dall'immagine eppure sbalorditi da quella massa di acciaio, di pietra, di polvere che ancora rappresentava a suo modo un palazzo, una serie di palazzi. Beh, una cosa che sicuramente porto dietro da quei giorni a New York fu il senso di riconoscenza per una città che nella tragedia ha saputo dare un esempio di civiltà. Concordo pienamente, infatti più volte nel libro mi soffermo su questo aspetto, cioè che gli americani ancora una volta hanno dimostrato di essere un popolo che sa reagire ai rovesci, un popolo fiero, ma vede, la cosa che mi ha colpito di più è che le persone più fiere nella cittadinanza erano gli immigrati. Io vedevo delle scene per la strada di persone di razza gialla, di razza nera, le quali si comportavano come degli americani doc. E insieme a loro sventolavano queste bandiere che inondarono la città per giorni, giorni e giorni, gridando "We are Americans, we are proud to be American" e frasi e slogan di questo tipo. Non c'era anche una dose di paura in questo? Ricordo che ci furono anche dei segnali di forte preoccupazione dalla comunità musulmana americana, che non dimentichiamolo, sono milioni di persone. Un forte timore che a un certo punto parte della popolazione si per rappresaglia si rivoltasse contro questi cittadini di origine islamica, di origine orientale. E ricordo anche, e questo la dice lunga sul sistema di giustizia americano, ricordo anche che la Suprema Corte mandò una circolare a tutti i tribunali degli Stati Uniti chiedendo di rinviare le cause civili e penali che vedevano coinvolti cittadini di origine islamica. Questo perché? Ovviamente perché pensavano che il clima che si era creato non era un clima che garantiva, diciamo, serenità di giudizio nei confronti di questi imputati. Cioè si chiedeva di fermare, come dire, quasi il respiro prima di... Esatto, contare fino a 10. 10. Contare fino a 10 prima di tradire, poi l'essenza stessa di fatto della cultura. Io mi ricordo in quei giorni di infinite camminate dalla Columbia naturalmente a Ground Zero. Ricordo chiaramente degli appelli a frequentare i ristoranti afghani, che messo così sembra una sciocchezza, cioè non una sciocchezza, ma insomma un dettaglio culinario. No, voleva essere dei newyorkesi che dicevano: attenzione, non mettiamo tutti nello stesso fascio. Ecco, ambasciatore, a proposito di... Un messaggio di tolleranza, se mi permette. Assolutamente, che in fondo è la ragione per cui tanti di noi amano New York, probabilmente. Sì. Ecco, però... In tutto questo, e facciamo un piccolo passo avanti, lasciamo New York, torniamo quasi a Washington, c'è stato uno scotto molto preciso in questa tragedia su come gli Stati Uniti hanno gestito una tradizione di diritti umani che la vicenda dell'11 settembre ha segnato fortemente. Lei cosa ne pensa? Sa, per capire come l'America si comporta di fronte a queste tragedie, bisogna conoscere l'America, gli americani e un po' di storia americana. Gli americani nel XX secolo si sono considerati, e probabilmente avevano ragione, la grande superpotenza dell'Occidente. Si sono battuti in maniera leonina contro il sistema marxista-leninista dell'Unione Sovietica e alla fine hanno avuto ragione loro, certo, perché nell'89 quel sistema è crollato. Allora, da un paese che è abituato a vincere le guerre, da un paese che interviene a 360 gradi, da un paese economicamente così forte, è ovvio che ci si trova anche un po' di spudoratezza in certe azioni di retaliation, e questa spudoratezza a volte si chiama Guantanamo. Certo. Il carcere di Guantanamo non è un esempio di protezione dei diritti umani. Ma ci sono anche diversi episodi nella guerra in Iraq. È chiarissimo, ma secondo lei Guantanamo ormai è, tanto per usare appunto un nome che è un simbolo, è ormai entrato in qualche modo nel DNA americano, è una tossina che la società americana sa espellere? Io la considero una tossina perché anche parlando con molti amici americani, quando vado a New York, eccetera, e parlando di Guantanamo, sento da moltissimi di loro, anche che occupano posizioni di rilievo all'interno dell'amministrazione del municipale, eccetera, considerano un po' Guantanamo un po' una vergogna, perché quello che emerge, che è emerso da Guantanamo a volte è proprio fango, è puro fango. Eccoci dunque, il tempo corre, i racconti, i ricordi dell'ambasciatore Radicati sono molti. Approfitto e lo ricordo, il libro pubblicato 11 settembre Io c'ero, edito da Iacobelli, in cui il racconto di quei giorni e non solamente, perché è chiaro che, come dire, la celebrazione in se stesso non avrebbe senso e non sarebbe neanche giusto per chi poi ha pagato con la vita, ha sofferto tragedie personali terribili, se non ci fosse un percorso in avanti. Lei dice, tra l'altro: sono stato abbattuto dal dolore, ma ho conosciuto l'esaltazione che può dare la visione di una nazione che afferma orgogliosamente la propria identità. 10 anni dopo, qual è secondo lei il bilancio di questa tragedia che ha cambiato il corso della storia? L'abbiamo accennato, negli anni 90 la superpotenza, l'impero, l'Unione Sovietica in ginocchio, di fatto gli Stati Uniti sembravano lanciatissimi verso la monopotenza. Beh, oggi la situazione è molto diversa. Oggi che cosa si sente di dire in conclusione? Beh, possiamo dire che, riportandoci a quanto detto sul significato del 11 settembre, che quel paese ha dovuto voltare pagina, e la nuova pagina è una pagina che presenta molti aspetti oscuri, molti aspetti grigi. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un colosso, o per meglio dire a un ex colosso, che continua a essere colosso attraverso i dati che noi abbiamo, certo. Però è un colosso che comincia a barcollare, e quello che lo fa barcollare non è soltanto il terrorismo, come ben sappiamo, ma è anche una crisi economica e finanziaria che ha minato quella stessa economia, con una percentuale di disoccupati al di sopra del 9%, che è altissimo per gli americani, con questo debito estero spaventoso che c'è sempre stato, ma che ora assume un significato particolare perché è un fattore sommatorio ad altri debiti e ad altre situazioni internazionali. con una Cina che incalza, che fa sentire diciamo così, la forza del numero, la forza delle dimensioni sul collo diciamo di Washington. E poi con altre situazioni, l'India che sta seguendo a stretto contatto la Cina, e poi il terrorismo che continua a esistere malgrado la testa Bin Laden sia stato ucciso. Questa è la situazione, quindi viviamo in un momento, probabilmente è un'epoca di transizione che non si sa quando avrà termine e non si sa soprattutto quali saranno i nuovi equilibri che si verranno a creare. Insomma, se prima dell'11 settembre ci si poteva illudere di vivere in molte certezze, sicuramente 10 anni più tardi quei punti di domanda in fondo che sono emersi così violentemente in quei giorni sono ancora tutti tra noi. Grazie ambasciatore Radicati di essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci. Bene cari ascoltatori, siamo in conclusione, non mi resta che ringraziare come sempre il nostro Pietro Lacorte questa sera, ricordarvi radio24.it per sentire e risentire questa trasmissione, anche i reportage dedicati all'11 settembre, sono davvero dei documenti interessanti, e naturalmente un ottimo fine settimana a tutti voi.